9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno. Il gatto ha rimiagolato con una certa violenza. 21 settembre, San Matteo, auguri a tutti. Matteo, il punto di oggi su cui vi chiedo di darci la vostra opinione, di telefonare, è quasi obbligato. La rottura, diciamo così, o comunque oramai la corda tirata molto molto molto energicamente da parte di Confindustria, sì lo so, l'editore di questa radio, non sono in conflitto di interesse, direte voi, comunque di Confindustria nei confronti del governo. Le parole di Emma Marcegaglia ieri sono state chiare, adesso le sentiamo subito, ma diteci voi se in ascolto, qualunque sia la vostra condizione, imprenditori, lavoratori dipendenti, autonomi eccetera, considerate queste espressioni, cioè la fine di una attesa, una grande delusione per ciò che il governo non ha fatto fino a questo momento e per la condizione di allarme in cui si trova l'Italia, se la considerate giusta, motivata oppure del tutto impropria. Sentiamo, apriremo i microfoni senza affettare le telefonate, oltre che ai nostri ospiti chiederemo anche a voi se considerate che in questo momento è più che giusto dire ora basta, siamo lo zimbello del mondo, oppure se invece in questo gli imprenditori vengono meno secondo voi il vostro al loro mestiere, che è quello di comunque essere costruttivi e non dire governo a casa. Io naturalmente sapete come la penso, ma intanto prima di presentarvi gli ospiti e mentre vi preparate a telefonare al 800 24 00 24 sentiamo un brevissimo file su come ieri si è espresso il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. O il governo è in grado domani, nella prossima settimana, di varare una serie di riforme serie, forti, impopolari, che creino una discontinuità chiara sui mercati, oppure questo governo deve andare a casa. Io l'ho detto chiaramente, non ho paura di dirlo, perché è evidente che è così, no? È evidente che è così. Allora, riforme in poche ore o governo a casa, su questo i giornali fanno oggi, riservano molto spazio su questo, insieme alla preoccupazione espressa dal Fondo Monetario Internazionale. Avete visto, ma oppure se non avete ancora scorso il giornale, il Fondo Monetario Internazionale ritiene che l'azzeramento del deficit, quello anticipato con la doppia manovra del 2013, doppia manovra che pure anche secondo Standard & Poor's, che ci ha declassato due notti fa, va andata oltre quello che ci ha chiesto l'Europa. Invece il Fondo Monetario dice avrà conseguenze depressive tali sulla crescita italiana per via del fatto che è fatta molto più di tasse che di tagli alla spesa, che mancherà addirittura di 15 miliardi di euro l'obiettivo dell'azzeramento del deficit. Quindi anche il Fondo Monetario unisce le sue preoccupazioni e restiamo in attesa naturalmente di Moody's e del suo giudizio. Trovate sui quotidiani di oggi ulteriori sviluppi di come si attribuisce a Palazzo Chigi reazioni intorno a questa specie di cospirazione dei poteri anglofoni che starebbe dietro i downgrading. Vero è che anche i microfoni di Radio 24 ieri pomeriggio colui che per 11 anni ha retto Fitch, una delle quattro agenzie di rating, ha confessato che la sua stessa opinione, lui non lavora più a Fitch ma insomma ha una certa esperienza delle agenzie di rating internazionale, del mondo che vi gira intorno, eppure ha dichiarato ai nostri microfoni ieri pomeriggio, l'avete sentito, che effettivamente vi sono movimenti di hedge e fondi di investimento interessati a abbassare il prezzo degli asset italiani per vedere cosa si può comprare a basso costo. Qualunque cosa ne pensiate voi, il governo è in attesa domani del voto su Milanese. Direte cosa c'entra, ma il voto segreto su Marco Milanese in realtà dirà parecchio della tenuta della maggioranza e dei rapporti tra Palazzo Chigi e Tremonti. Ultima mia pillola prima di chiedere ai nostri ospiti il piano decennale per la crescita, che della settimana scorsa è arrivato ieri al suo secondo appuntamento al Ministro dell'Economia. Le notizie sono che il Ministro dell'Economia ne ha affidato la redazione di questo piano decennale della crescita. Io quando sento il piano decennale mi viene un po' da sorridere, ma comunque il coordinamento della redazione a Ignazio Visco, cioè il vice direttore della Banca d'Italia. Per il momento quello che si comprende è che sono alcune delle norme di cui in questi anni si è molto parlato senza poi vederle applicate o approvate da alcuni particolari per accelerare le infrastrutture, tipo i bond di progetto, al rilancio della banda larga, la retrocessione all'IVA dei porti, insomma niente di epocale, cose che se si facessero sarebbero comunque ben accette, ma niente riforma delle pensioni, ma niente liberalizzazioni, cioè i veti più grandi non superati dal governo della manovra bis resterebbero. Allora, la domanda che io faccio ai due ospiti che ora vado a presentarvi è la stessa che ho fatto a voi e su cui apriremo i microfoni. il ritiro della fiducia da parte di Confindustria a questo governo è motivato, è utile, serve a dare una spinta residua, se ne fosse necessaria, a qualcosa che l'Italia può fare per evitare di avvitarsi, oppure è da considerarsi in qualche maniera improprio dal punto di vista degli osservatori, come dal punto di vista di chi l'Italia tutti i giorni la tiene in piedi lavorando? Allora, questa domanda è secca e si attende una risposta altrettanto sincera. Abbiamo come ospiti Nicola Porro, vice direttore del Giornale. Buongiorno a te, grazie Nicola. Buonasera. E Marco Alfieri, inviato della Stampa, che già ieri ha scritto su questo argomento. Grazie, buongiorno a Marco Alfieri. Buongiorno a voi. Allora, Nicola Porro, che alla mia domanda un po' secca, com'è la tua risposta? È impropria, però devo anche fare una premessa, cioè che Oscar Giardino è piuttosto coraggioso di invitarmi a chiedere di questioni di Confindustria, perché dimostra di essere libero nella testa prima che nelle parole. Vabbè. Beh, però te lo devo dire, perché oggi mi aspettavo di avere la libertà di dire quello che è su Confindustria, e lo dico ai tuoi microfoni in maniera spero garbata, e perché questo è il base di ogni conversazione civile. Io penso che del resto, prima che inizi a dirlo, però ha senso, se uno pone la domanda così quando Confindustria ritira la delega di fiducia, ha senso invitare chi ci si attende che risponda sinceramente sì o no, altrimenti io, che cavolo di mestiere facciamo? Scusa. No, Oscar, io ho una storia particolare con Confindustria. Lo so, ma ha maggior ragione. Non c'è un'onestà problema. Intellettuale quella di invitare, potrò dirlo anche in diretta, questo certo. Non sembra che siamo troppo amichetti, se no, assolutamente, ecco, non ti preoccupare. Ecco. E quindi no, la cosa che voglio dire con garbo ma con nettezza è la seguente. Allora, le critiche alla manovra finanziaria le abbiamo fatte io e te in questa trasmissione, secondo me, 2-3 settimane fa, dicendo che questa era una manovra finanziaria che assolutamente non guardava lo sviluppo, che era fatta tutta sulle imposte e che questa manovra finanziaria non toccava i veri nodi della spesa pubblica. Ci siamo quasi annoiati a dirlo di quanto questa manovra non serve assolutamente a risolvere i veri problemi dell'Italia. Quindi su questo io non posso essere in disaccordo con la Confindustria, ma neanche con il signor Rossi che lo pensa. Però la mia posizione è un'altra. E cioè, la manovra è questa, quindi do ragione a Confindustria. La mia posizione è che il tema di Confindustria oggi è uno dei temi di freno del paese, ma non per la Confindustria da chi è guidata oggi o da chi era guidata ieri. In Italia, quando si parla di sbloccare il mercato, liberare il mercato, rendere più libera la nostra competizione, vuol dire anche, secondo me, disintermediare completamente da parte del governo, da chiunque esso sia guidato, quell'insopportabile liturgia per cui ci si vede in un tavolo con 50 persone a Palazzo Chigi, tra sindacati, i partiti sociali, Ignazio Visco, Nicola Porro, Oscar Giannino. Il governo, qualsiasi governo governi, sa perfettamente quello che deve fare. Quando io mi leggo che ieri c'è stato un ulteriore tavolo con le parti sociali, qui ci hanno spiegato le liberalizzazioni, sono convinto che ci stanno prendendo per i fondelli, prendono tempo. Perché questo è rivolto alla Confindustria? Perché la Confindustria fa parte di questo gioco delle parti, rappresenta, secondo me, per gran parte, purtroppo, oggi, grandi imprese pubbliche con grandi interessi monopolisti, poche imprese piccole in maniera sana, e quindi io sono convinto che rappresenta uno dei freni di questo paese, perché le operazioni del governo si concertano con la Confindustria e con i sindacati, ovviamente. La concertazione, lo dice un liberista che non, ovviamente non fa piacere al governo, ma non fa piacere neanche alla Confindustria, è il più grande inganno che ci portiamo dagli anni 90. Non si deve concertare un niente. Nulla, un governo deve concertare i voti che fa col Parlamento, gli ordini professionali non si concerta con gli ordini se distruggerli, gli aiuti alle imprese non si concerta con la Confindustria come tagliarle, le liberalizzazioni non si concertano con la Confindustria come farle, il taglio completo degli aiuti al fotovoltaico, che è un furto fatto dei cittadini, non si concerta con le imprese associate alla Confindustria, perché se no non si fa nulla, così ovviamente come non si concerta la riforma delle pensioni con CGIL, CISL e UIL, perché sennò non si fa la riforma delle pensioni. Perciò quello che io cerco di dire è che oggi, da un punto di vista tecnico, la Confindustria, dopo essere passata, la Confindustria di Manfarcegaglia, dopo essere stata passata da grande sponsor di questo governo, grandissimo sponsor nei primi due anni di questo governo, sembra essersi svegliata e essersi accorta che questo governo non ha fatto nulla. Mi spiace dirlo, che bastava sentire Giannino immodestamente Porro 2 anni fa per capire che il governo non faceva queste cose, e quindi temo che la posizione di oggi della Confindustria sia una posizione tattica e non sia una posizione strategica. Concludo perché se no ho parlato troppo, che il problema da porsi è anche questo: quando noi chiediamo che Berlusconi molli, cosa che io posso anche condividere, però dobbiamo dire perfetto, Berlusconi molli, e al posto di Berlusconi però non è indifferente se ci arriva Mario Monti, se ci arriva Profumo che ci vuole fare una patrimoniale da 400 miliardi, se ci arriva Passera che non la vuole, se ci arriva Bersani. Cioè l'idea che un paese, soltanto perché non abbia Berlusconi presidente del Consiglio, abbia risolto i suoi problemi sul rating, sul debito pubblico e sulla tendenza alla spesa pubblica, è una cosa che mi atterrisce. Ieri, tra l'altro ieri, sul Corriere della Sera c'è stato un pezzo straordinario di Alesina e Giavazzi in cui hanno dimostrato, se ce ne fosse bisogno, quanto le manovre mostre di Amato, quelle che avrebbero dovuto dare la scossa al sistema, in realtà non sono servite a nulla, ma hanno depresso i consumi per gli anni a venire. Ti faccio Oscar e ti ringrazio. No, perché questo... La critica di Porro, che ho apposta, mi aspettavo, perché è legittimo, no? Più o meno ci si conosce, si sa come si articolano i pensieri, è una critica secondo me che ha senso ascoltare fino in fondo. Perché? Perché per esempio sulla concertazione io sono il primo a pensarla come lui, non so quante imprese la pensino come lui, secondo me tantissime. Fatto sta che a questo ritiro di fiducia ci si è arrivati dopo tantissime pressioni dalla base, dopo un consiglio direttivo di presidenza 2 settimane fa in cui tutti dicevano ma piantala di aspettare, piantala, bisogna, non ce la facciamo più sui mercati internazionali metterci la faccia. Al che dice Nicola: ma oramai sono i grandi gruppi, però i grandi gruppi pubblici credo che non siano proprio quelli in prima fila nel dire, anzi sono quelli un po' più critici. Spiego: ieri sera a Ballarò c'era per esempio il presidente del Confindustria del Lazio, praticamente oltre che di Roma, Regina in effetti era critico rispetto alla posizione espressa ieri dal presidente di Confindustria Marcegaglia, dicendo forse non tocca a Confindustria ritirare o dare le deleghe di fiducia al governo. E ha senso che sia così, perché Roma appunto ha grandi soci iscritti che sono i pubblici, che naturalmente hanno un rapporto col governo. Il governo è il controllore, esercita i poteri di controllo di quelle aziende. Però in definitiva a me sembra un punto da sottolineare nel rapporto con Berlusconi, con Confindustria, i tempi di Vicenza e così via. È una storia lunga, è una storia di il mio programma è il vostro programma e il mio programma è il vostro programma. Nicola, come giustamente dici tu, chi la pensa come noi, chi vuole meno Stato, più efficienza, più privato, meno concertazione, meno regole contrattate col sindacato, non perché non vogliamo il sindacato di rappresentanza, ma perché vogliamo un mercato che funzioni dall'altra parte e non butti fuori i giovani non dandogli pensioni e non dandogli retribuzioni. Ecco, tutto questo, insomma, il governo ci ha un po' deluso. Ora ci arriva anche Confindustria, che è pullenta, pesante, e mi rendo conto, io aggiungo anche una cosa che Nicola non ha detto, il sospetto di molti osservatori che sono critici perché non vogliono abbassare le bandiere di fronte alla sinistra per sue azioni, e dire conterà anche il fatto che Marcegaglia magari è la fine del mandato e c'è la tattica. Quando Nicola Porro dice tattica, io lo traduco anche così, e naturalmente siccome facciamo sto mestiere da anni sappiamo che alla fine di un mandato di Confindustria c'è sempre l'attesa per vedere chi poi sarà il successore, con quale linea rispetto a quale governo e così via. Ci sono imprenditori, fior di imprenditori che hanno un grande peso nella vita associativa di Confindustria, come Abete, che non mascherano da tempo, sono per la patrimoniale. Abbiamo per questo a Bergamo fatto votare 6.000 imprenditori anche per la patrimoniale, sorpresa il 42% di loro non era contrario. Insomma, ci sono tante cose che in queste 140.000 aziende iscritte bollono in pentola. Credo che il non poterne più nel nord sia molto forte, però io penso che siamo una radio libera, almeno io sono liberissimo e anche i miei colleghi qua, e quindi abbiamo iniziato con le critiche, sorpresa sorpresa, invece che con l'esaltazione. Ora, Marco Alfieri, tu hai scritto ieri, hai iniziato una specie di giro per le grandi unioni industriali del nord e in realtà quotavi e davi voce a presidenti, vicepresidenti, imprenditori anche di simpatie leghiste che dicevano noi non ne possiamo più. Siccome poi tra l'altro scrivi sulla Stampa e... tanto per essere fino in fondo chiari, anche tu sei libero, però non è sospettabile la Stampa in quanto tale, voglio dire, per l'editore che ha, non è un mistero che Marchionne ancora adesso firma le intese dicendo forse al 1° gennaio me ne vado alla Confindustria, quindi sgombriamo anche il campo di là, ma non sei sospettabile, per così dire, l'editore non ti imporrebbe mai cosa scrivere, ma comunque il giornale, la sua proprietà, ha una posizione che non è totalmente allineata ovviamente a quella di Marcegaglia, lo ricordo solo così, non perché conti in quello che scrivi. La impressione che hai tu, che batti il nord da tanto tempo, qual è? Che rispetto al tono di Emma sia una cosa impropria o sia una cosa più che giustificata perché la gente la spinge perché non ne può più? Ma no, vi seguo abbastanza sul ragionamento che avete fatto, nel senso che c'è una pressione forte della base, e quando si parla di base del Nord, chiaramente non si parlano dei cosiddetti pubblici associati, iscritti alla Confindustria del Lazio e segnatamente di Roma. E paradossalmente, quello che ha detto Nicola Porro, che io in parte condivido, paradossalmente rafforza il fallimento del ciclo berlusconiano, cioè superare la concertazione che molti piccoli, la pancia del blocco dei produttori padani chiede da tempo, magari anche perché, come dire, in molte aziende non c'è neanche la concentrazione perché stiamo sotto i 15 dipendenti, era un punto liberista del manifesto berlusconiano del 94, beh, quella roba lì non è mai stata fatta, cioè quindi paradossalmente questa cosa rafforza il fatto che ancora oggi siamo intabarrati in una concertazione associativa, anche a fa specie vedere questi tavoloni nella sala verde di Palazzo Chigi con 50 persone, perché quando si è più di persone non si decide nulla, quindi anche questo dimostra l'impotenza di questo governo. Dopodiché il sistema delle imprese ha molte pecche, l'abbiamo scritto spesso, dal nanismo al corporativismo associativo, poca indole agli investimenti, però qui c'è il punto, credo che sia diverso in questo momento, cioè è il paese che sta in qualche modo staccando la spina da questo governo, e la Confindustria, forse anche secondo alcuni osservatori anche tardi, quando dico osservatori intendo dire anche personaggi influenti della classe dirigente diffusa di Confindustria, ci sono molte territoriali al nord che hanno spedito varie lettere a Emma Marcegaglia negli ultimi mesi dicendo: Emma, fatti sentire, abbiamo bisogno di un tuo messaggio di verità, e che prenda anche, metta dei paletti rispetto a un governo che è percepito nel mainstream come troppo amico di questa Confindustria. Quindi io girerei davvero la frittata. C'è quindi un problema ovviamente di credibilità internazionale per quelle tante migliaia di imprese, non tantissime ma tante importanti del nord e del nord-est che esportano sui mercati internazionali, hanno problemi davvero di credibilità internazionale quando fanno le gare, quando si presentano per un potenziale business. Queste sono cose che contano, sono costi impropri che iniziano a pesare davvero tanto. E poi c'è come dire, l'ultimo passaggio che io non la lascio per ultimo, ma è un tema reale e forse paradossalmente è quello più importante. C'è questa sindrome di amore tradito, cioè l'investimento della base confindustriale e dei piccoli del nord su Berlusconi è stato un investimento quasi antropologico, Berlusconi è uno di noi, cioè il collega Silvio, quello che tutti vorremmo essere, quindi c'è anche questo fatto che non va dimenticato, che non significa che allora è semplicemente un ritiro di delega emozionale, significa che quei 2-3 punti decisivi che Berlusconi ha imposto fragorosamente nell'agenda politica italiana, cioè il meno tasse per tutti, le liberalizzazioni, lo zero burocrazia, beh, dopo, alla fine di questo ciclo berlusconiano sono ancora tutti sul tavolo, e dopo la crisi del 2008 non sono più rinviabili, non si può più fare paragone con gli altri governi dicendo beh, però forse è il meno peggio Berlusconi, non basta più perché la concorrenza è talmente forte che rischia di spazzarti via, quindi io credo che alla fine la Confindustria arriva a ratificare una roba già consumata nei fatti sul campo. Ecco, però l'aspetto antropologico che hai toccato è uno dei tanti altri aspetti essenziali del rapporto con Berlusconi e il mondo dell'impresa, ma del rapporto con Berlusconi e il paese. Quando Giuliano Ferrara due sere fa esordisce nella sua nuova trasmissione Radio Londra, La ripresa dopo l'estate, dicendo Berlusconi è un grande eroe popolare, un'espressione che oramai arriccia, insomma, i peli a molti quando la sentono, in realtà tocca il punto, proprio per questa questione del rapporto antropologico, tanto più forte ancora col mondo dell'impresa, voi come noi, il vostro programma è il mio programma, io conosco la pancia, ciascuna vostra intenzione e tattica di vendita e così via, è uno dei punti fondamentali che rende poi anche così difficile superare la questione di Berlusconi, perché il rapporto di pancia, il rapporto antropologico è un rapporto irragionevole e irrazionale per definizione, è come un rapporto tra un uomo e una donna, e il problema è che quando poi si rompono le cose diventa sempre difficile risolverle ragionevolmente. Questo credo che sia uno degli aspetti fondamentali di questo lungo 17enne, tanto è vero che agli occhi di tanta parte del popolo di centrodestra non ha molto senso parlare del merito di quello che il governo ha fatto, perché la questione è direi sempre, di fronte a una parte proprio centrodestra, gli altri peggio, lui meglio. Sono stati i sabotatori intorno, sono stati i ministri intorno, non all'altezza, come se non l'avesse scelti lui. E la questione antropologica è una questione fondamentale, perché fa parte della piega carismatica della Seconda Repubblica, che era la giusta risposta, secondo me, all'eccesso di delega con i partiti radicati dovunque. Adesso abbiamo movimenti carismatici che sono altrettanto deludenti agli occhi degli italiani. Ma questo aspetto, quello antropologico, è molto importante, sia tra gli imprenditori che dicono sì, sia tra quelli che dicono no, secondo me la maggioranza. Due rapide chiamate al volo, poi andiamo in pubblicità, flash naturalmente. Luigi da Pisa, prego Luigi. Sì, buongiorno. Io vivo le due situazioni, quello di dipendente e quello di piccolo imprenditore. Questo governo ci ha tradito su tutte e due le parti, a noi bloccandoci gli stipendi, bloccando di tutto. Come imprenditori non ha creato niente, e quindi cosa ha fatto? Ha depresso solo il mercato. E io se sopravvivo come imprenditore con qualche legge fatta dal governo precedente. Poi l'ultima cosa che voglio dire, questi secessione secessione, ma stanno governando quasi sempre loro da 10 anni, da 12 anni quelli della Lega, quindi dovrebbero fare una secessione da se stessi prima cosa. Grazie. Prego Luigi, attento che tra Maroniti e Bossiani siamo quasi lì lì, insomma, la secessione no, ma insomma. Umberto da Milano, prego Umberto, rapido anche lei. Buongiorno, niente, si sta parlando del ruolo di Confindustria. La mia opinione, io se devo essere sincero, ho sempre più apprezzato forse Montezemolo di Emma Marcegaglia come presidente. Credo che Emma sia stata scelta anche perché è un po' più, diciamo, tollerante, un po' più vicina a una politica di Berlusconi. Comunque non è vero quello che dice Porlo, che ogni governo sa cosa deve fare. L'Italia è in caduta libera, in declino, è penultima per crescita del mondo da 20 anni, e questo governo fino a 15 giorni fa lo negava questa cosa qui. Fino a 15 giorni fa in agenda c'era i ministeri a Monza, c'erano altre stupidaggini, e quindi è assolutamente falso quello che diceva Porro da questo punto di vista. Vabbè, assolutamente falso. È vero quello che dice lei, non è che Porro abbia negato nulla in materia di se il governo diceva o non diceva la serietà delle questioni da affrontare. Quanto poi se è stata scelta, sai, i presidenti di Confindustria vengono sempre scelti con l'idea di poterli controllare, poi sono sempre diversi da come insomma. La rottura del 2009, le ricordo, dell'inizio di questa presidenza con CGIL su come si fanno i contratti in deroga, veniva dopo che 7 anni Montezemolo per 4, ma poi anche per i 2 anni precedenti, i presidenti di Confindustria avevano aspettato invano la CGIL, perché senza CGIL non succedeva niente. Quindi sa com'è, a volte ci sono delle sorprese anche nei caratteri che sembrano invece molto pronti al compromesso. Quindi se io dovessi dare un giudizio della presidenza di Montezemolo, questa è più energica di Montezemolo, ma questa è la mia opinione. Eccoci qui in studio sulla rottura tra Confindustria e questo governo. Vi leggo le parole del direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che trovate oggi sul fondo in prima pagina del quotidiano di Confindustria. Scrive a conclusione del suo editoriale il direttore: il Presidente del Consiglio dimostra di amare davvero l'Italia e di avere di conseguenza la forza e la volontà di farsi da parte, se è costretto, come tutto rende evidente, a prendere atto che non riesce a fare quello che serve. Lo faccia nell'interesse del Paese, si comporti da uomo di Stato e da uomo dell'economia. Dopo la Grecia, signor Presidente del Consiglio, non ci può essere l'Italia, mai e poi mai. Per una volta, Presidente del Consiglio, non si giri dall'altra parte e si ricordi che grandi responsabilità impongono anche grandi sacrifici. Sappiamo che le costerà, ma sappia pure che la storia, dopo questo gesto, saprà fare i conti giusti. E nella storia dei rapporti tra Confindustria e i governi in carica è praticamente difficilissimo, si contano su due dita i precedenti di pronunzie così nette nei confronti a rischi così gravi che da tempo il sistema delle imprese italiane additava rispetto all'avvitamento della crisi dell'eurodebito. Abbiamo con noi, dopo aver sentito le opinioni, avete sentito critiche argomentate di Nicola Porro del Giornale e l'opinione di tipo diverso di Marco Alfieri della Stampa, anche lì non un'opinione a favore, un'opinione che dice sì, alcuni anzi dicevano nel sistema delle imprese che ci arrivava troppo tardi a esprimere la critica. Abbiamo con noi il presidente di Un'Industria Treviso, Alessandro Vardani. Panica. Ricordate che prima dell'estate abbiamo dedicato una trasmissione anche al giorno in cui c'era l'assemblea, il giorno dell'assemblea a Treviso, per le proteste che gli imprenditori esprimevano nei confronti degli ostacoli permanenti alla loro attività in termini di regole amministrative, di carico tributario sempre in aumento. E chiediamo a Alessandro Vardanica come vive questi giorni in cui il sistema ha espresso oramai nei confronti del governo il giudizio che ha espresso ancora ieri, ma dopo mesi e mesi in cui arrivavano i richiami. Che dicono i suoi associati? Buongiorno intanto a lei e ai suoi ospiti. Gli associati, diciamo che Confindustria Nazionale presenta le istanze che vengono dai territori. In questo nostro territorio trevigiano e veneto in questo momento stiamo vivendo una situazione di grande disagio, perché evidentemente gli imprenditori insieme ai loro collaboratori stanno facendo degli sforzi molto importanti, li hanno fatti in questi ultimi trimestri, lo stanno facendo in modo particolare in questa fase. Sono sforzi che vanno nella direzione di ristrutturare le proprie imprese per cercare di intercettare una domanda che è diversa rispetto a quella del passato, e purtroppo non si riscontrano altrettanto azioni forti da parte del Paese, da parte della politica, nella direzione che è auspicata. E questo crea evidentemente grande disagio. Noi veniamo purtroppo da troppo tempo in cui la politica ha adottato un atteggiamento di contrapposizione, di delegittimazione reciproca, quando invece la politica deve, soprattutto in questa fase che è davvero molto delicata, deve dimostrare capacità di composizione degli interessi, anche di mediazione. Perché qui davvero dobbiamo ricostruire la fiducia. Buona parte della oggi stiamo decidendo quale sarà il nostro futuro, e purtroppo questo non si vede nell'atteggiamento di una buona parte del Paese, non si vede nell'atteggiamento di chi ha responsabilità di tipo politico. Quindi questo è il disagio che stiamo vivendo, è un disagio che abbiamo portato ovviamente all'attenzione della nostra Presidente, perché qui il sentimento diffuso è quello che serve una discontinuità, soprattutto per ricostruire un minimo di fiducia. Mi passi il termine, è un po' come quando una squadra di calcio va male, il semplice cambio dell'allenatore a volte poi fa vincere o quantomeno pareggiare la partita successiva, perché serve uno scatto di orgoglio, serve uno scatto di fiducia. Contano anche un po' le preoccupazioni rispetto al rallentamento, alla congiuntura internazionale, difficoltà nuove sull'export, o è in particolare, scusi se glielo chiedo, l'allarme che è arrivato a questo punto, soprattutto nella parte in cui tanti piccoli ma esportano così tanto, danno così forte il contributo alla ripresa italiana, come nel suo territorio dove esiste l'Unione di cui è presidente, quello che vi fa essere così preoccupati è l'aggravamento internazionale al di là dell'euro, oppure voi dite la verità è che in questi anni è stata un'occasione perduta, bisognava farlo per l'Italia perché ci serviva comunque, anche se le cose andassero bene, insomma? Ma vede, in questi mesi abbiamo fatto grandi sforzi e grandi interventi sui mercati internazionali. Se noi andiamo a prendere i dati di questi primi sei mesi, troviamo che anche nel territorio veneto e trevigiano le esportazioni sono cresciute di un 15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e poi riscontriamo, se andiamo ad analizzarle anche più in dettaglio, riscontriamo che risultati estremamente positivi sono stati raggiunti anche in quei paesi cosiddetti emergenti, quindi quei nuovi paesi nei quali tradizionalmente non eravamo presenti. È chiaro che oggi lo scenario è diverso rispetto a qualche mese fa, e questo porta grande preoccupazione, ma io posso assicurare che gli imprenditori non hanno uno spirito di un sentimento di rassegnazione, semmai, come dicevo prima, c'è la delusione perché non si vede quella discontinuità a livello politico. Purtroppo la politica oggi non sta, e questo crea questa delusione e crea questo sentimento che noi abbiamo cercato di rappresentare con quella marcia che abbiamo fatto a maggio, dove da un lato abbiamo voluto affermare il nostro ruolo, abbiamo voluto affermare il valore dell'impresa, che io spesso definisco come vera e propria infrastruttura sociale, e ce ne siamo resi conto in questa fase di crisi, in questi tre anni di crisi, quanto importante sia stato il ruolo dell'impresa. E lo dico perché non sono passati tanti mesi da quando le economie andavano bene, anche nel nostro stesso territorio, territorio c'erano pezzi di società che in qualche modo ritenevano eccessive le imprese, il numero delle imprese, perché una eccessiva industrializzazione portava traffico, inquinamento e quant'altro. Oggi abbiamo capito quanto importante sia il ruolo sociale dell'impresa e noi con quella marcia abbiamo voluto affermare il valore del nostro lavoro, della nostra dignità e anche assumendoci un ruolo di responsabilità per costruire il nostro futuro. Ma abbiamo voluto soprattutto denunciare il fatto che c'è una parte del paese che è ostile al cambiamento, una parte del paese che continua a perseguire logiche meramente corporative, rivendicative, che mirano semplicemente a tutelare i propri diritti, che sono indifferenti al bene comune. Quindi il messaggio forte che viene dai territori e che arriva in Confindustria e che la nostra Presidente Marcegaglia sta ben rappresentando in questa fase è che qui dobbiamo riscoprire una parola che purtroppo nel Paese si è persa, che è quella del dovere, perché i diritti non ci possono essere se non c'è un corrispondente dovere, che significa assumersi la responsabilità di concorrere al bene comune. E in questo senso gli imprenditori stanno dicendo: noi siamo disposti a fare la nostra parte fino in fondo, ad assumerci anche quei sacrifici che sono necessari per costruire il futuro, per dare una prospettiva al nostro paese e ai nostri giovani, però a condizione che questi sacrifici si accompagnino a uno sforzo davvero importante a livello politico, che sono quelle riforme, quelle scelte impopolari senza le quali noi non possiamo avere futuro. Grazie al presidente di Unindustria Treviso. Rapidi ascoltatori prima dell'informazione stradale, poi torniamo con le conclusioni affidate ad Alfieri a Porro. Allora cominciamo rapidamente con Luigi che ci chiama da Pisa. Prego Luigi. Sì, vi ringrazio di avermi richiamato. Comunque io vorrei dire una cosa: questo paese ha bisogno di risolvere i problemi dell'evasione. L'evasione si risolve solo in un modo: far sì che tutti possano detrarre almeno una piccola parte di quello che spendono e eventualmente sanzionare chi viene preso che non si è fatto fare la ricevuta pesantemente, se no non se ne esce. E poi togliamo tanto contante dal giro, togliamo i pezzi da 500, da 200, da 100 che non servono all'economia. Grazie Luigi. Benissimo, benissimo, per un'altra puntata ti richiamiamo ancora, perché oggi no, però non parliamo di questo. Oggi la questione è: che ne pensate, diciamo, ritiro della delega Confindustria a governo, tardiva, impropria, giusta, non giusta? Marco da Genova, prego Marco, rapido. Pronto, buongiorno, grazie per aver chiamato. Io sono convinto che sia più che tardiva un intervento di questo genere, e poi volevo fare un'altra considerazione. Secondo me anche Confindustria ha i suoi anni e sarebbe bene che si ristrutturasse un pochettino per essere più vicina alla frammentazione e alla segmentazione dei suoi aderenti, perché sono diverse le esigenze delle grandi da quelle delle piccole industrie e sono diversi anche i termini contrattuali e i termini negoziali e il loro rapporto col territorio. Questo tema che lei solleva secondo me ha una grande importanza, perché poi se ne parla ogni volta e poi c'è sempre un'emergenza perché non si affronta. La faccio concludere, prego, mi scusi. No, assolutamente. Io sono convinto che cose di questo genere fanno la diversità tra un mondo, una società, un'economia moderna e un'economia ingessata. Tutti stiamo dando, io credo di essere un po' dalla sua parte, mi sento meno coinvolto, ma vedo che tutte le strutture sono estremamente sclerotizzate, estremamente conservative, incapaci di fare un passo in avanti. E la devo interrompere qua, ma il punto è che la rappresentanza è ingessata dovunque, incrostata dovunque nel nostro paese. Questo credo che sia un problema molto serio, è un problema molto serio. Carlo da Roma, prego Carlo, rapido, prego. Sì, rapidissimo. Allora, devo dire che io sono molto sorpreso di questo distacco oggi della Confindustria, perché l'imprenditore Berlusconi, con i fatti, è nato con Mediaset e il potere televisivo fu acquistato grazie a delle leggi particolari di Craxi. La famosa Mondadori, ormai le sentenze sono andate in Cassazione, è stata comprata con la corruzione di un giudice. La famosa TV7 che un imprenditore onesto italiano aveva comprato e che erano le frequenze di Rete4, hanno ritardato 10 anni con delle leggi. Allora, una persona del genere non è un imprenditore corretto. Come si può pensare che un paese con un'economia che vorrebbe essere sana possa essere guidato da una persona del genere, che è ridicolo chiamare imprenditore. Carlo, il suo punto di vista è di uno che antropologicamente, oltre che politicamente, è convinto che Berlusconi sia il male. E io ho sempre detto su questo che la storia è lunga e complicata, però se mi chiedete per cosa Berlusconi deve passare alla storia, innanzitutto è perché ha triplicato il fatturato sul PIL italiano e perché ha sconfitto e piegato l'intollerabile monopolio pubblico della televisione. Intollerabile, questo è il mio giudizio. Dopodiché lo ha fatto anche grazie alla politica, eccetera. Certo, perché la politica continuava ad avere solo il monopolio e lui è riuscito ad aggirare le regole del monopolio, dove per aggirare significava come fare una diretta senza violare la regola, per cui la diretta era impossibilitata con le cassette e i ponti radio. Questa è la mia opinione personale. Ovviamente la controstoria del gruppo Repubblica è che si tratta di un malvagio malversatore dei costumi delle minorenni, e questo se la vede lui, perché io in questo non lo difendo, ma di ogni regola fondamentale del mercato. Io penso che questo sia un giudizio improprio, perché spesso è difeso da signori monopolisti pubblici o da signori cartellisti privati che stanno nei patti di sindacato delle banche, che hanno regole non diverse, non dico migliori, ma non diverse da quelle seguite da Silvio Berlusconi anche in ogni singolo momento, anche più discutibile della sua vita di imprenditore. Questa però è la mia personale opinione, che non sono sospettabile però di difendere Berlusconi, il suo governo, eccetera eccetera, lo critico apertamente, però la questione è il giudizio sull'uomo e sull'imprenditore. Dice tutto il male. A me fa abbastanza sorridere all'idea di che cosa ha fatto la Fiat in 100 anni, tanto per dirne una. Ma non sto dicendo tutti uguali, sto dicendo un'altra cosa. Ma questa è storia lunga. Ancora Vittorio da Monza, prego, per gli ascoltatori, rapidissimo. Vittorio, come la pensa? Buongiorno, allora io dico che è tardivo, doveva intervenire molto decisamente molto prima. Si era parlato che a Cernobbio si davano di gomiti gli industriali e qualcuno voleva addirittura alzarsi. Quella sarebbe stata una cosa che doveva fare, perché io faccio il direttore commerciale in una media azienda della zona di Bergamo e non le dico la fatica che facciamo a tirare avanti e per sentirsi rappresentati da questa macchietta, e non aggiungo altro, ma a parte la macchietta del primo ministro, proprio il governo, che non ha fatto niente, voglio dire, le liberalizzazioni, ha tentato di farle Bersani, immagini lei se è ribaltato Bersani, il centro-sinistra che fa le liberalizzazioni, il centro-destra che doveva avere un po' di coraggio, fare un po' di liberalizzazione, l'articolo 18 doveva essere messo sul tavolo, dovevano portarlo avanti con forza, non hanno fatto niente, hanno detto che, ma insomma, ne abbiamo piene le scatole, ma cosa aspetta? Ma ok, Vittorio, grazie, chiarissimo il suo pensiero. Allora, 2 minuti a testa, 2 minuti per Nicola, 2 minuti per Marco. Nicola Paro, secondo te come va a finire? Perché una delle caratteristiche di Berlusconi è quella sempre di deludere e stupire coloro che lo considerano innumerevoli volte sull'occidio del burrone, e poi lui alla fine è il conio sempre in piedi, marameo, ed è sempre in piedi. Riuscirà anche questa volta, secondo te? Nicola? Mi senti? Sì, sì, ecco. Se l'ascoltatore di prima, che è il direttore commerciale, ti dice che Berlusconi deve fare l'articolo 18 e non l'ha fatto, mentre soltanto per l'articolo 8, che è una roba molto più ridotta, succede, grazie a Dio, e lui non se ne è reso neanche conto, vuol dire che, ma non sto dando una colpa al tuo ascoltatore, è finito il feeling del paese con Berlusconi. Non solo non gli perdonano più nulla, ma non gli riconoscono neanche quel poco che ha fatto. Voglio solo aggiungere una cosa: il pezzo di Napolitano, molto bello, oggi sul Sole 24 Ore, il direttore del Sole dice oggi a Berlusconi di fare un segno di dignità e di lasciare il paese, di lasciare la guida del paese, cosa che io capisco e comprendo, però bisogna anche qui avere, non il Napolitano, perché lui è da poco direttore del Sole 24 Ore, l'onestà intellettuale di ricordare che lo stesso Sole 24 Ore ha definito Giulio Tremonti l'uomo dell'anno, cioè sostanzialmente qui oggi si stanno rendendo conto tutti che questo è il peggior governo della Repubblica. Fino a un anno fa il ministro dell'economia di questo governo, che è lo stesso che io e te in certa misura criticavamo per le tasse, per le pensioni, veniva considerato un genio. Mi fa veramente sorridere oggi tutti questi signori che dicono che questo è il peggior governo della Repubblica, però un anno fa incensavano questo governo. Seconda cosa, fammi dire, perché per me sì, l'ascoltatore di Genova ha detto delle cose straordinarie, io non l'ho espresse così bene. In realtà il limite della Confindustria è che, e come dei sindacati, perché lo direi ovviamente anche di fronte a un sindacato, che sono due organizzazioni figlie della Prima Repubblica, la vecchia Prima Repubblica, strutturate secondo i modelli della Prima Repubblica, e che purtroppo per loro oggi non rappresentano più quello che rappresentavano nella Prima Repubblica. Quando io dico, Marco forse mi ha un po' frainteso Alfieri, che grandi imprese, io intendevo semplicemente dire che oggi c'è grande parte dell'impresa italiana che non è neanche associata a Confindustria, perché non ha i soldi per pagare la quota, perché non pensa che sia utile stare in Confindustria, perché ritiene che sia politica la Confindustria, ed entra in Confindustria, fidati, perché c'ho le aziende anch'io, soltanto perché ha bisogno o di tutela legale o quindi di servizi da parte di un'associazione datoriale. Non ha più quel ruolo che aveva nella prima repubblica di concertazione. Questo è quello che cercavo di dire. Bueno, ma questo ovviamente vale con delle eccezioni. Quando io ho sentito prima parlare il presidente, lì capisci, i presidenti veneti hanno secondo me ancora una base fortissima. Però ecco, è un'altra roba rispetto. Perciò secondo me la Confindustria oggi non rappresenta più quella cosa, il governo dovrebbe disintermediarla e fare, cosa che non ha fatto e che non ha più tempo di fare, quindi poi ti lascio. Chiarissimo. Quindi come vedete, Porro dice c'è un problema di feeling che si è interrotto. La questione della rappresentanza io sono totalmente d'accordo, ma questo è trasversale, riguarda tutti. Marco Alfieri, che farà? Berlusconi ci stupisce ancora una volta, il crono sempre in piedi secondo te oppure no? No, io penso che questa volta diciamo l'Araba Fenice non rinascerà, non ce la farà, insomma, tutti contro, anche con un tratto, in questo sono d'accordo con Nicola, anche con un tratto un po' perverso, cioè adesso tutti gli si alzano contro, disconoscendo, come dire, il grande feeling che c'è stato, insomma, questo però fa parte sempre delle rovinose cadute, delle grandi cadute di personaggi in qualche modo comunque epici che sono entrati nella veramente nelle corde del paese. Berlusconi certamente, al di là di come la si pensi, è uno di questo. Io penso che lui non ce la farà, ci sarà un intervento come già sta avvenendo, insomma, leggere stamattina Sergio Romano sul Corriere forse fa ancora più scalpore rispetto all'editoriale di Roberto Napolitano, che in fondo segue, diciamo così, anche la voce forte del suo azionista. Insomma, dice che molti mondi anche che in Italia comunque contano lo stanno e lo hanno abbandonato. Se saldiamo poi al basso appunto il malessere diffuso che, come giustamente ripeteva Nicola, l'ascoltatore di Bergamo ha in qualche modo evidenziato, insomma, vuol dire che si è rotta questa grande storia d'amore tra un pezzo importante del paese e Berlusconi. Dopodiché però io lo dico non che io sia un fan berlusconiano, ma lo dico con una certa amarezza, perché la storia di Berlusconi in fondo è la storia, io non ho la mistica della liberazione dal tiranno, non penso assolutamente quello. Io penso che sia stata davvero una storia di una grande occasione perduta, perché il giorno dopo, quando se Berlusconi davvero volterà pagina e andrà e uscirà dalla politica, tutti i nodi che noi abbiamo realizzato dalla prima repubblica li troveremo aperti. Io ti devo interrompere, temo, ma questo è aggiungo di mio, e scopriremo anche che poi chi propone le ricette che a questo punto ti rivela solvifiche, vedremo che sono ancora più pesanti e depressive. Questa è la mia opinione, io non ho grande speranza nei patrimonialisti e statalisti che rappresentano oggi la speranza di voi tutti, che anche oggi mi avete mandato diverse centinaia di mail dicendo che devo stare zitto perché ero un servo del padrone, del servo di Berlusconi di qua e di là. Vedete, tutte le volte che io leggo questi linguaggi penso che fare libero esercizio, come abbiamo fatto anche oggi, addirittura criticando la presa di posizione del governo del nostro editore, sia qualche cosa che speriamo vi faccia cambiare la testa e cambiare il linguaggio. Lo dico a chi di voi riesce solo dopo questi 17 anni a concepire gli insulti come unico dialettica politica. Speriamo che in qualche maniera vi si secchi la lingua. Per quello che mi riguarda, linea al Giornale Radio, appuntamento a domani.